Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per entrare all'udienza, sia in aula sia in piazza, non si deve pagare. È gratuita. Ho saputo che ci sono dei furboni che fanno pagare i biglietti. Ti stanno truffando. Quell'uomo, quella donna è un delinquente. Questo non si fa. Capito? Così ha detto il Papa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, capito? Quindi se volete andarlo a ascoltare non c'è bisogno di pagare, non vi fate imbrogliare. Però a fronte di queste parole eque e pacifiche e giuste del Papa, quante ingiustizie, quante brutte notizie, ancora per esempio un episodio di violenza sulle donne oggi. Abbiamo iniziato l'anno malissimo da questo punto di vista e purtroppo in Italia si mantiene alta la media di queste violenze. Oggi una ragazza di 28 anni è stata sfregiata dall'ex, tra l'altro lei ex Miss Romagna, una ragazza bellissima, quindi proprio la volontà di toglierle la bellezza se lui non ne può usufruire e cancellare l'identità. Parleremo poi, anche ci aggiorneremo sull'indagine del cyberspionaggio di cui abbiamo parlato molto approfonditamente ieri e poi naturalmente ci concentreremo anche sulla decisione della Consulta a proposito dei referendum, dei quesiti referendari sul Jobs Act. Due sono stati ammessi, quello sull'articolo 18 no, e poi capiremo anche quali sono le reazioni e le conseguenze politiche. Ci collegheremo anche con gli Stati Uniti perché oggi Trump ha fatto la sua prima conferenza stampa e possiamo dire che ha detto tutto e il contrario di tutto, nel senso che per la prima volta ha ammesso che ci sono state delle infiltrazioni degli hacker russi nella campagna elettorale americana, poi però ha detto forse è stato un altro stato. Insomma, cercheremo di capire qualcosa di più. Voi per i vostri commenti, lo sapete, ci sono due canali privilegiati come sempre, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure c'è un numero per messaggi WhatsApp che è il 349-238-6666, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Prima di tutto, cosa faccio? Come sempre vi racconto la giornata. Jobs Act, la Consulta boccia il referendum sull'articolo 18, ma dà il via libera ai quesiti su voucher e appalti. La leader della CGIL Camusso annuncia pronti a ricorso alla Corte europea. L'inchiesta sul cyberspionaggio si indaga sul business delle informazioni sensibili. Stati Uniti, Trump attacca la Russia sugli hackeraggi e l'intelligence americana sui dossier durante la corsa alla Casa Bianca. Paura per Gentiloni dopo un lieve malore, angioplastica per il Presidente del Consiglio, ricoverato al rientro da Parigi, sta bene, tanti messaggi di auguri. Movimento 5 Stelle perde pezzi in Europa, l'eurodeputato a fronte passa ai Verdi e sfida Grillo, la multa è carta straccia, dice Zanni, va al gruppo ENF che riunisce Lega e Fronte Nazionale. Ancora terribili violenze contro le donne, una ragazza ex Miss Romagna sfregiata con l'acido a Rimini dall'ex rischia di perdere la vista e rimane in carcere l'uomo che ha dato fuoco all'ex fidanzata. La coppia uccisa nel Ferrarese, confessano figlio sedicenne e l'amico, due ragazzi, contestata la premeditazione. Sanremo, Maria De Filippi sbarca al festival, vengo gratis, dice Carlo Conti, commenta, volevo il top. Calcio, in Coppa Italia la Fiorentina ha battuto il Chievo 1-0 e si qualifica per i quarti di finale, in campo Juventus-Atalanta. Partiamo quindi dalla decisione della Consulta sui quesiti referendari relativi al Jobs Act, no al referendum sull'articolo 18, sia quelli su voucher e appalti. La CGIL annuncia ora il ricorso alla Corte europea. La Consulta dice sì a due dei tre quesiti referendari. Si voterà allora sulla cancellazione dei voucher e sulla reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di appalti. Bocciato invece dai giudici della Corte Costituzionale il quesito relativo all'articolo 18 che puntava a reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa. Decisione questa che però non va giù alla Camusso. Valuteremo nei prossimi giorni tutte le possibilità, comprese quelle di ricorrere in Corte europea rispetto alle normative sui licenziamenti. I voucher sono uno strumento malato che va azzerato, aggiunge la segretaria della CGIL. È necessario intervenire sui voucher e sull'articolo 18, rilancia quindi dalla sinistra PD Bersani. Il segretario Guerini commenta. Credo che confermi l'impianto del Jobs Act e consenta di lavorare per implementare i contenuti della riforma, per estendere le tutele, per rafforzare il mercato del lavoro. Il referendum sui voucher darà la spallata finale al PD, commenta Di Maio, 5 Stelle, di sentenza politica. Politica parla Salvini, Lega. Il Jobs Act è una buona legge, rivendica dal governo il ministro del lavoro Poletti. Quanto ai voucher, aggiunge, ne ridurremo l'utilizzo improprio. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi il malore per il Presidente del Consiglio, l'intervento, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stato sottoposto ieri sera a un intervento di angioplastica al Policlinico Gemelli dopo un lieve malore al rientro da Parigi dove aveva avuto un vertice con Hollande. Il bollettino dell'ospedale parla di più non successo. Ottimo il decorso clinico di Paolo Gentiloni. Il Presidente del Consiglio ha avuto un leggero malore al ritorno da Parigi ed è stato sottoposto all'impianto di uno stent sulla base degli esami del sangue e di una TAC che avevano rilevato un'ostruzione di un ramo coronarico distale. L'operazione è pienamente riuscita ed è stata eseguita dal professor Filippo Crea, direttore del Polo di Scienze Cardiovascolari del Policlinico Gemelli di Roma. Auguri di pronta guarigione dall'Europa e dall'Italia, in primis dal segretario PD Matteo Renzi, e in serata Paolo Gentiloni twitta: grazie per l'affetto, i medici e il personale sanitario sono bravissimi, sto bene, torno presto al lavoro. Purtroppo però da segnalare anche post vergognosi e pieni d'odio su Facebook. Sarà il ministro più anziano a presiedere le riunioni del governo finché Gentiloni sarà assente, in questo caso Claudio De Vincenti, attuale ministro della coesione territoriale e del mezzogiorno. Elisabetta Fiorito, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E siamo all'inchiesta sul cyberspionaggio. Non abbiamo mai rubato dati nella nostra attività. Si sono difesi così Giulio e Maria Francesca Occhionero, arrestati ieri con l'accusa di avere sottratto mail, dati personali a politici, imprenditori, nell'interrogatorio di garanzia a Regina Coeli. Si sono difesi così. Gli indirizzi mail sono pubblici, hanno detto, non c'è prova di sottrazione di dati da parte nostra. Nel frattempo il capo della polizia Gabrielli sposta ad altro incarico il capo della polizia postale perché, dice, ha sottovalutato la portata dell'indagine senza informare i vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Poi torneremo a parlarne, anche perché bisogna capire che obiettivi avevano, come ci siamo chiesti ieri, e si indaga a questo proposito sul business delle informazioni sensibili. Siamo negli Stati Uniti, dopo settimane di attacchi contro l'intelligence statunitense, accusata di voler delegittimare la sua vittoria alle elezioni presidenziali, Donald Trump ha ammesso per la prima volta che Mosca avrebbe cercato di influire sull'esito del voto con i suoi attacchi informatici contro il Partito Democratico, salvo poi dire che forse è stato un altro paese, un altro stato. Nella conferenza stampa organizzata alla Trump Tower di New York, il presidente eletto ha negato qualsiasi rapporto con Mosca, ha assicurato che l'Obamacare, quindi la riforma sanitaria di Obama, sarà abrogata ma sostituita immediatamente, che sarà il più grande creatore di posti di lavoro e che le aziende che lasciano gli Stati Uniti non la faranno franca, così ha detto Trump. Ma come vi dicevo, poi ci collegheremo per sapere più nel dettaglio di questa conferenza stampa con gli Stati Uniti. Torniamo invece sulla politica italiana, col Movimento 5 Stelle che perde pezzi in Europa. L'eurodeputato a fronte passa ai Verdi, sfida Grillo e dice la multa, quella da 250.000 euro, è carta straccia, mentre Zanni va al gruppo che riunisce all'Europarlamento Lega e Fronte Nazionale. Una decisione molto sofferta che mi ha fatto stare molto male, i dubbi ci sono, però non c'erano più le condizioni per rimanere in quel gruppo. A parlare Marco Affronte, il primo eurodeputato pentastellato a lasciare la delegazione grillina a Bruxelles dopo il fallito tentativo di aderire ai liberali di ALDE e la successiva decisione di restare nell'FDD, la formazione euroscettica guidata da Nigel Farage. Affronte ha aderito al gruppo europeo dei Verdi, seguito a stretto giro dall'altro eurodeputato eletto con i 5 Stelle Marco Zanni, che invece è passato all'Europa delle Nazioni della Libertà, la formazione eurofobica di Marine Le Pen e Matteo Salvini. Decisioni che, secondo Beppe Grillo, costeranno ai fuoriusciti 250.000 euro, ovvero la sanzione prevista dal Codice 5 Stelle per chi compie gravi inadempienze. Rientra invece l'altra annunciata defezione, quella dell'europarlamentare grillina Daniela Aiuto. Dopo essere stata accettata quasi all'unanimità dal gruppo dei Verdi, la pentastellata ha infatti fatto un passo indietro, annunciando via Twitter di voler restare con Grillo e Farage. Il tutto mentre, da domani, finisce sotto processo il nuovo statuto e regolamento 5 Stelle che stabilisce le espulsioni approvato lo scorso ottobre. Alcuni iscritti al movimento hanno infatti deciso di impugnarlo davanti ad un giudice, contestando a Grillo, che dovrà presentarsi in tribunale, la modifica dello statuto senza una votazione assembleare. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore. E arriviamo alla cronaca con ancora terribili violenze contro le donne. È stata sfregiata con l'acido dal suo ex compagno, una riminese di 28 anni, ex Miss Romagna, e ricoverata in gravissime condizioni. addestratrice e speaker al Delfinario di Rimini. E nel 2007 Jessica Notaro era stata proclamata Miss Romagna e aveva conquistato la finale nel concorso di Miss Italia, ma non era la prima volta che subiva maltrattamenti dall'ex compagno, come accade spesso in questi casi. Dopo vari episodi, in agosto è stata aggredita di sera e questa volta sfregiata con un getto di acido dall'ex, originario di Capoverde, rintracciato il mattino dopo. A suo carico era già stato aperto un fascicolo, sfociato in un provvedimento di ammonimento. Ora la ragazza è ricoverata in gravissime condizioni, ma forse non rischierebbe di perdere la vista. Ha riportato ustioni abbastanza profonde al volto e alla zona degli occhi, ma i medici sono ottimisti. Ancora un caso che richiama subito alla memoria la vicenda di Lucia Annibali, l'avvocatessa di Pesaro, sfregiata nel 2013 con l'acido da due sicari incaricati dal suo ex compagno, avvocato Luca Varani, tutti in carcere. Gloria Lisi, vice sindaca di Rimini, dice si perpetua la violenza e annuncia che attiverà fin da subito per supportarla la Fondazione Vittime Reati, per ora unica in Italia a fornire aiuto immediato in questi casi, come spiega la presidente Elena Bucoliero. Il nostro intervento non è dare ciò che è stato tolto con un fatto così grave come una violenza fisica o come un'uccisione, è dare quello che serve per riuscire a sostenere le conseguenze del reato, per coprire quei bisogni che sono immediati. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E rimane in carcere Alessio Mantineo, che nei giorni scorsi a Messina, voi sapete, ha dato fuoco alla ex fidanzata di 22 anni. Il GIP di Messina, Eugenio Fiorentino, nell'ordinanza è stata emessa nei confronti dell'uomo, scrive: la studiata pervicacia criminale della quale l'indagato ha dato contezza, unito all'aver agito con premeditazione, con crudeltà e alle modalità della condotta che palesano la volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive, non lasciano altra scelta che disporre la misura della custodia in carcere. E parliamo anche della coppia che è stata uccisa nel Ferrarese. Il figlio sedicenne della coppia di coniugi uccisi a Ponte Langorino, che ha confessato il duplice delitto dopo un lungo interrogatorio, avrebbe pagato l'amico fermato con lui per compiere il duplice omicidio. Un'indiscrezione non confermata nella conferenza stampa in procura parlerebbe di un accordo: 100 euro subito, 1000 a delitto compiuto. Il movente del mandante invece non sarebbe ancora chiaro, al momento non sembra essere quello economico, ha detto il procuratore. E c'è emergenza sangue in 9 regioni italiane. Dopo l'appello di alcuni presidenti regionali, oggi a intervenire è stato il Centro Nazionale Sangue. Chiede ai donatori, che possono presentarsi dalla Puglia all'Umbria, passando per la Basilicata e il Lazio, a pesare la combinazione di una stagione influenzale particolarmente dura e del maltempo. A rischio ci sono anche Abruzzo, Toscana, Campania, Liguria e Marche. E siamo così a Sanremo, il Festival della Canzone ormai alle porte. Carlo Conti cala l'asso, al suo fianco nella conduzione la regina della TV Generalista. Intanto ringrazio la RAI e Carlo di questa proposta. Per me è stato ed è motivo di orgoglio partecipare al Festival di Sanremo, che è il festival più importante per la musica italiana. Ringrazio Mediaset, in particolare per Silvio, perché mi conferma la totale libertà che vivo da anni nel poter scegliere cosa fare e come farlo. E poi Gianni, poi boicottate. Per chiudere il calcio, vedo una partita, quella in campo di Coppa Italia, già con una Juventus in vantaggio, ma chiediamo lumi a Giovanni Capuano. Caro Giovanni. Sì, in vantaggio per 1-0 la Juventus, siamo al 28esimo minuto, stiamo parlando degli ottavi di finale di Coppa Italia, allo Juventus Stadium, 1-0 per i bianconeri, gol bellissimo, al 22esimo di Paolo Dybala, che è schierato titolare davanti con Mandzukic, mentre Pjanic agisce da trequartista. Dybala ha concluso con un sinistro dai 20 metri, potentissimo, angolatissimo, imprendibile per il portiere dell'Atalanta Berisha, è stato servito da una torre di Mandzukic, un gol davvero bello che è stato a lungo applaudito dal pubblico che è accorso questa sera a Torino. È una bella partita, c'è qualche riserva, c'è un po' di turnover, ma le due squadre si stanno dando assolutamente battaglia in campo. C'è nella Juventus il debutto dal primo minuto di Rincon, che è l'acquisto del mese di gennaio. Nell'Atalanta ci sono due punte, Petagna ed Alessandro, alle spalle c'è un trequartista. Prima del gol di Dybala, al 16esimo, c'era stato un palo colpito in maniera anche un po' fortunosa, casuale, da Mandzukic, ma la Juventus era già andata vicina alla rete. Poi, come detto, la gemma di Paolo Dybala al 22esimo, ora siamo nel 29esimo minuto, 1-0 per la Juventus sull'Atalanta. E ti racconto anche che nell'altra partita che si è giocata oggi degli ottavi di finale, la Fiorentina ha battuto 1-0 il Chievo, decisivo il gol di Bernardeschi su calcio di rigore a tempo praticamente scaduto al 92esimo, grandi proteste, Fiorentina avanti, ai quarti incontrerà il Napoli. Grazie Giovanni Capuano, poi ci aggiorniamo dopo sulla partita Juventus-Atalanta, che come dicevamo per ora conduce Juventus 1-0. Prima della viabilità, alcuni vostri commenti e messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Giuseppe da Roma dice: il Papa ha ragione, Roma è piena di bagarini che fanno soldi disonestamente, e c'è il problema dei centurioni e di altri. Poi il Papa, l'avete sentito all'inizio, che ha detto un po' ironicamente, un po' arrabbiato: guardate che per venirmi a sentire non dovete pagare biglietto. Aveva proprio un biglietto in mano oggi quando lo diceva. E poi c'è Francesco da Udine che dice: ho già scritto che le donne che denunciano molestie o minacce con coraggio grande non sono però affatto protette dalla violenza del persecutore. La legge deve proteggere realmente queste donne così coraggiose, scrive Francesco. E sappiamo, evidentemente, se continuano a morire nonostante le denunce, purtroppo ha ragione Francesco. E poi un altro ascoltatore che scrive: basta con questa violenza alle donne, è una vergogna, è veramente una grande vergogna del nostro paese, al di là del mondo intero, ma insomma in particolare anche del nostro paese, visto che qui viviamo. Mentre sulla la decisione della consulta sui quesiti referendari, Domenico scrive: ritengo sbagliato non dare la possibilità ai cittadini di esprimersi su temi importanti come le politiche sul lavoro. Viene da pensare che dopo il risultato del 4 dicembre la Corte si inclini a non voler dare la parola al popolo. Ne parleremo tra poco, eh? Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie, cari ascoltatrici e ascoltatori, le avete sentite in sintesi, come sempre all'inizio. Non perdete l'inizio, ma tutto il resto di Effetto Notte, se volete essere costantemente aggiornati a fine giornata, tutti i giorni, scusate il bisticcio di parole, ma per avere un quadro completo dei fatti più importanti non potete perdere Effetto Notte. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Francesco scrive sulla pagina: era prevedibile, il quesito sull'articolo 18 avrebbe portato a un referendum surrettiziamente propositivo ed è stato dunque giudicato inammissibile. Sui voucher interverrà il legislatore, si finirà per votare solo sugli appalti, spendere un sacco di quattrini e non raggiungere il quorum. Insomma, poi questo ancora bisognerà vedere se si raggiunge o meno il quorum. Questo comunque è il parere di Francesco. Tra pochissimo ne parleremo, ma prima di tutto, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi ricordo quali sono i fatti principali. No della consulta sull'articolo 18, referendum inammissibile, sì invece sui voucher e gli appalti. La leader della CGIL Camusso dice: valutiamo un ricorso all'Unione Europea. E poi Trump che fa nella sua prima conferenza e dice: c'è la Russia dietro gli hacker. Poi invece cambia idea, ma poi capiremo collegandoci con gli Stati Uniti. Smantellerò l'Obamacare, io non sono ricattabile. E poi dice che trasferisce i suoi business ai figli e farò il muro col Messico, il Messico ce lo pagherà. Movimento 5 Stelle perde pezzi in Europa, l'eurodeputato a fronte va ai Verdi, sfida Grillo e dice: la multa è carta straccia. Daniele Aiuto ci ripensa e resta con i 5 Stelle. Zanni verso il gruppo ENF della Lega e di Marine Le Pen. Ora per Gentiloni, che ha avuto un lieve malore di ritorno da Parigi, ha avuto un'angioplastica, un intervento, adesso sta bene. Tanti messaggi di auguri. Respingono le accuse i fratelli accusati di cyberspionaggio, ma negano non danno insomma le password. Renzi e Draghi non sarebbero stati infettati, tra virgolette. Coppia uccisa a colpi d'ascia, confessano il figlio 16enne e l'amico nel Ferrarese. I due ragazzi, è stata contestata la premeditazione. E poi nel Riminese sfregiata una 28enne, un ex Miss Romagna, con l'acido dall'ex fidanzato. E per quanto riguarda la ragazzina a cui è stato dato fuoco dall'ex, l'accusato resta in carcere. Maria De Filippi sbarca a Sanremo: vengo gratis al festival, Conti dice volevo il top. Parto da quello non ammesso, perché visto che anche quello che al momento c'ha particolare enfasi, per dire una cosa molto semplice: noi siamo convinti che la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici passa attraverso la loro sicurezza. E quindi continueremo la nostra iniziativa contrattuale per ristabilire i diritti, abbiamo molti accordi alle spalle e continueremo a farli, così come ovviamente valuteremo nei prossimi giorni tutte le possibilità, comprese quelle di ricorrere in Corte europea rispetto alle normative sui licenziamenti. Questo ha annunciato oggi in conferenza stampa la leader della CGIL Susanna Camusso a proposito della decisione della consulta della Corte Costituzionale sui tre quesiti referendari relativi al Jobs Act, cioè quello sull'articolo 18, l'articolo e che è stato abrogato appunto con la riforma del lavoro e che prevedeva il reintegro per i lavoratori e le lavoratrici licenziati senza giusta causa. Su questo ha detto che è inammissibile questo quesito, mentre ha dato il via libera agli altri due, uno sui voucher, quindi la modifica dei voucher tanto contestati ultimamente, e anche sulla corresponsabilità di appaltatori e appaltanti su appunto i diritti dei lavoratori. Ne parliamo con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Quindi abbiamo sentito che cosa ha detto la leader della CGIL Camusso. Tra l'altro questi quesiti erano state le firme raccolte proprio dal sindacato, oltre 3 milioni no, di firme per ripristinare le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori. Adesso restano queste due, poi dopo parleremo con Barbara Fiammeri degli aspetti più politici. Tu che cosa commenti a proposito della storia, per esempio, dei voucher? No? Adesso tutti dicono sì, bisogna cambiarli, dovevano cercare di evitare il precariato, invece lo hanno rafforzato, dovevano far emergere il lavoro nero, invece sono stati utilizzati in modo scorretto. Due cose. Uno, credo che sia uno scampato pericolo quello di evitare al Paese di nuovo il conflitto fra Guelfi e Ghivellini sull'articolo 18. L'abbiamo pagato per 30 anni e di fatto abbiamo impedito al riformismo su un tema delicato e importante come quello del lavoro di spiegare tutti i suoi effetti. Questo in termini generali, se vuoi, anche perché il quesito, per come era stato ricomposto attraverso le varie cancellature, avrebbe previsto il reintegro in caso di licenziamento illegittimo per imprese con più di 5 addetti, addirittura molto di più di prima, che invece prima lo prevedeva per quelli 15. Sopra i 15, no? Quello avrebbe avuto conseguenze micro e macro molto importanti, perché spesso avrebbe comportato il fatto che le aziende magari si dividevano in tre per avere tre imprese da cinque, per evitare i guai della legge, con un ritorno al nanismo di impresa. Insomma, ci sarebbero stati vari guai, francamente, che dovremmo considerare di aver archiviato con la nuova formulazione, che è ancora in fase sperimentale, dei contratti a tutele crescenti, che più o meno sta funzionando. Anche se, Alberto Rioli, vogliamo dirci una cosa, cioè il problema della mancanza di lavoro era l'articolo 18. Tra l'altro, vedevo i dati dell'osservatorio sul precariato dell'INPS, ci sarebbe stato nei primi 8 mesi del 2016, secondo l'INPS, un aumento del 28% dei licenziamenti disciplinari. I licenziamenti disciplinari, tra l'altro, sono i più impugnabili rispetto anche alla formulazione del nuovo Jobs Act, quindi lì vanno quasi tutti a contenzioso, bisogna vedere come finisce. No, il problema è che l'articolo 18 in realtà ha ragionato per tanto tempo di tutele rispetto a un lavoro che comunque non si creava, magari anche per altri motivi, ma anche per quello, cioè era comunque un motivo che soprattutto per aziende di investimento estere, eccetera, faceva parte di tutta una retorica, se vuoi, che dipingeva l'Italia come un paese non sufficientemente approcciabile, eccetera. Quella cosa lì, con il Jobs Act, per quanto riformabile, che va messo a punto, e tutto il resto, è un po' superata. Invece, venendo ai voucher, mi chiedevi tu, io credo che sia giusto che la legge rimetta mano a questo strumento, francamente, perché evidentemente è stato sottoposto danni, ad abusi e a un uso distorto che probabilmente lo stesso legislatore non aveva messo in preventivo. È evidente che il 2016 credo si chiuderà con 160 milioni di buoni lavoro, quindi insomma è un dato molto che va ben oltre l'idea di andare a pagare i contributi per i lavoretti. Vedevo che Boeri oggi in un'intervista su Repubblica diceva che anche la CGIL dice CGIL ipocrita, li usa in gran quantità, parla di 75.000 ore pagate, sì, esatto. I voucher. Esatto. Sì, devo dire, c'è stata questa polemica sulla CGIL che usa i voucher. Francamente, finché però la legge non cambia, anche la CGIL, se deve utilizzare un impiego diciamo così di poche ore e che non può essere effettivamente un impiego a tempo indeterminato, deve usare il voucher in un altro modo, altrimenti violerebbe la legge, quindi anche questo va detto obiettivamente. Detto questo, la motivazione all'origine del voucher resta corretta, secondo me, e sarebbe sbagliato perdere completamente lo strumento, perché recuperare a regolarità e quindi recuperare anche evasione contributiva per quegli spezzoni di lavoro che comunque esistono, i cosiddetti lavoretti che fanno i nostri figli, li abbiamo visti tutti, cioè che non sono obiettivamente, non possono essere configurabili come un lavoro a tempo indeterminato, sarebbe un danno per il paese. Tieni conto che 160 milioni di voucher staccati nel 2016 vuol dire 400 milioni di euro di contributi per l'INPS e l'INAIL, cioè non è detto che azzerando il voucher quel tipo di risorse lì rientra, perché i voucher diventano altre forme di rapporti di lavoro regolari e emersi, diciamo così. Il rischio è che molta parte di quei contributi che oggi comunque affluiscono alle casse di INPS e INAIL si perderebbero, e questo sarebbe un ulteriore danno. Insomma, poi capiremo adesso, forse in primavera ci saranno le consultazioni, si capirà quando si voterà, se si voterà, perché se ci fossero delle modifiche prima da parte del governo, per esempio sui voucher, probabilmente viene depotenziata la... Beh sì, in genere la legge supera poi la consultazione se viene affrontato il tema oggetto del quesito, e quindi dovrebbe essere superabile. Rimarrà probabilmente invece quello sugli appalti, che ripristinando una forma di, anzi no, imponendo una forma di responsabilità in solido tra appaltante e appaltatore su irregolarità di chi cede l'appalto rispetto al modo con cui si utilizzano i lavoratori, crea qualche problema poi nella normale svolgersi delle attività dei grandi lavori, che già sono bloccati perché si stanno adattando alla nuova normativa sugli appalti, che è stata oggetto di un travaglio grosso, insomma, che ha avuto ripercussioni poi sull'entità dei lavori messi in campo. Insomma, difficile conciliare vari aspetti. Secondo me si rischia un po' poi sul fronte degli investimenti, però vedremo. Grazie Alberto Rioli, buon lavoro. A voi. Ciao Alberto. Ciao. Oh, abbiamo detto quindi le consultazioni probabilmente ci saranno in primavera, adesso vedremo reazioni politiche. Il leader della Lega Salvini ha detto che una sentenza politica gradita, dice, ai poteri forti, al governo, come quando bocciò il referendum sulla legge Fornero, dice, temendo una simile scelta anche sulla legge elettorale il prossimo 24 gennaio, preannunciamo un presidio a oltranza per il voto e la democrazia sotto la sede della consulta a partire da domenica 22 gennaio, quindi sul piede di guerra Salvini. Calderoli invece, sempre della Lega, vicepresidente del Senato, di tutt'altro avviso, dice il no della Corte Costituzionale al referendum sull'articolo 18 e il sì a quelli su voucher e appalti rappresentano una decisione prevedibile e condivisibile, dice. La consulta ha lavorato bene dimostrando piena autonomia. Movimento 5 Stelle non entra nel merito, ma Luigi Di Maio attacca, dice, questa primavera saremo chiamati a votare per il referendum che elimina la schiavitù dei voucher e sarà la spallata definitiva al PD, mentre Speranza, della minoranza PD, dice a legge vigente voto sì ai due referendum. Commentiamo con Barbara Fiammeri. Ciao Barbara, le conseguenze politiche. Sì, ciao. Del Sole 24 Ore. Barbara, perché fra l'altro, al di là di queste reazioni, c'è anche un'altra cosa che succede, no? Nel senso che probabilmente i renziani speravano quasi, penso, no? Che fosse ammissibile anche il quesito sull'articolo 18, in modo che il governo sarebbe stato probabilmente indebolito e tutta la riforma cuore del governo Renzi, e quindi avrebbe chiesto le elezioni anticipate. È possibile che ci sia questa... Beh, sì, questo diciamo è uno dei vari teoremi che hanno preceduto il verdetto della Corte, peraltro rafforzato da quelle dichiarazioni che fece il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, quando disse se la Corte dovesse ammettere il referendum sull'articolo 18 si andrà al voto, quindi diciamo rafforzando questa interpretazione. Detto questo, credo che la decisione su voto o non voto, cioè rispetto al voto politico, non parlo del referendum, si capirà tutto con la sentenza del 24 gennaio, sempre della Corte Costituzionale, sulla legge elettorale. Anche se al momento mi sembra, sì, anche se al momento mi sembra evidente che le possibilità di una fine anticipata della legislatura si stiano di giorno in giorno riducendo, anche perché è difficile staccare la spina a un governo senza che ci sia una ragione. Chi fa il riferimento al caso di Letta non tiene conto del fatto che in quell'occasione si decise per un cambio a Palazzo Chigi, ma non per un ritorno alle urne, quindi non sono neanche due vicende assimilabili da questo punto di vista. Barbara, sul Movimento 5 Stelle vedo un messaggio al 349-238-6666, altri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice questo ascoltatore o ascoltatrice: i ragazzi del Movimento devono imparare a combattere di fronte a errori piccoli e grandi. La fuga tradisce mancanza di carattere, la politica nasconde continue insidie. Quindi, se vogliamo proprio chiudere con un commento su queste defezioni, diciamo, il Movimento 5 Stelle a fronte, l'eurodeputato a fronte e Zanni, no? L'eurodeputato a fronte che va con i Verdi e Zanni va con il gruppo invece della Lega, sempre a livello di Parlamento Europeo, e di Marine Le Pen. Sì, diciamo che queste due defezioni in realtà rappresentano poi quelle che sono le divergenze all'interno dei 5 Stelle, sia in Europa ma probabilmente anche in Italia. Cose che succedono, vogliamo permetterlo, in tutti i partiti, per carità, Sì, no, in questo caso è un po' diverso, nel senso che essendo un movimento appunto che si è sempre fregiato del non essere di destra o di sinistra, sì, ha diverse anime al suo interno. Diciamo che questa cosa, che la decisione di Grillo e Casaleggio soprattutto, così repentina, imposta calata dall'alto, fallita peraltro, ha fatto emergere tutta una serie di di malesseri che nel gruppo del Parlamento Europeo dei 5 Stelle già c'era, e che peraltro adesso mette un po' a rischio anche la tenuta interna in Italia. A che cosa mi riferisco? In questi giorni, quando c'è stato appunto il fallimento dell'adesione all'ALDE e ora il ritorno al gruppo di Farage, peraltro da un punto di vista politico incomprensibile, perché essendosene andati perché dicevano che non c'erano più le ragioni per proseguire, dici poi sono adesso ritornati. Adesso sono ritornati, in realtà sono le ragioni tecniche di cui parlava Di Maio, cioè le ragioni anche finanziarie che hanno imposto questo ritorno nel gruppo che volevano lasciare. Ma stavo dicendo che appunto Salvini invece ha sfruttato questa vicenda dei 5 Stelle per fare una sorta di campagna acquisti, no? Nei confronti dei grillini delusi da Grillo. E per ora abbiamo il caso appunto di Zanni, però è un segnale preoccupante, anche perché a questo segnale Grillo risponde dicendo devono il contratto prevede i 250.000 euro di multa, quindi, che devono pagare, sì, se loro non si dimettono. Però insomma c'è una questione politica, di politica rilevante, perché stiamo parlando di persone che sostengono che praticamente in realtà a tradire quelle che erano le ragioni del movimento sarebbero stati gli stessi leader. Insomma, la questione si complica. Ma più che altro non si risolve dicendo allora pagate la multa, perché la questione qui è politica e quindi una questione politica va affrontata politicamente. Il limite di Grillo è stato proprio quello di non averla affrontata politicamente, cioè di aver fatto un gioco tattico di Grillo e di Casaleggio, perché poi pare, perché non è che si sa, cioè non ci sono stati dei momenti in cui c'è stato un confronto e si capisce chi ha deciso cosa. Comunque, diciamo, di Casaleggio e di Grillo è stato quello di fare questo giochino molto molto spregiudicato e alla fine ne stanno pagando un prezzo, stanno pagando le conseguenze. Invece per di il fare momento il mea culpa reagiscono dicendo allora pagate peso. Come dice l'ascoltatore. Grazie Barbara Fiammeri. Ciao Barbara, ciao, a presto. Prima di lasciarci i vostri commenti, tanto dice un ascoltatore o ascoltatrice, mettete almeno un nome d'arte, ci sono una valanga di licenziamenti per giusta causa, disciplinari, che significa che se ti vogliono licenziare un motivo lo trovano. Poi invece un altro ascoltatore: la CGIL persevera con grande costanza a frenare in tutti i modi la crescita e la moderna evoluzione dell'economia italiana, complimenti per come interpreta coerentemente il sindacato nell'Ottocento. Continuate, pagina Facebook di Effetto Notte, poi 349-238-6666, ci risentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, ormai siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Tra pochissimo andiamo su un altro tema, dopo il racconto della giornata che avete sentito all'inizio. Abbiamo parlato anche molto di politica e non solo. E adesso vi ricordo, siccome non tutti accendono puntualmente, quali sono le notizie più importanti. Jobs Act, la consulta boccia il referendum sull'articolo 18, ma dà il via libera ai quesiti su voucher e appalti. La leader della CGIL Camusso annuncia pronti a ricorso alla Corte Europea. L'inchiesta sul cyberspionaggio, ne parleremo tra pochissimo. Stati Uniti, Trump attacca la Russia sugli hackeraggi e l'intelligence americana sui dossier durante la corsa alla Casa Bianca. Paura per Gentiloni, dopo un lieve malore, angioplastica per il Presidente del Consiglio, ricoverato a rientro da Parigi, ora sta bene. Movimento 5 Stelle perde i pezzi in Europa, l'eurodeputato a fronte passa ai Verdi e sfida Grillo, dice la multa e carta straccia. Zanni va al gruppo europeo che riunisce Lega e Fronte Nazionale. Ancora terribili violenze contro le donne. Una ragazza ex Miss Romagna sfregiata con l'acido a Rimini dall'ex rischia di perdere la vista. E rimane in carcere l'uomo che ha dato fuoco all'ex fidanzata. La coppia uccisa nel Ferrarese, confessa il figlio sedicenne e l'amico e due ragazzi contestata la premeditazione. Sanremo, Maria De Filippi sbarca al festival. Vengo gratis, dice Carlo Conti, commenta. Volevo il top. Per il calcio, in Coppa Italia la Fiorentina ha battuto il Chievo 1-0 e la Juventus per il momento conduce sull'Atalanta 2-0. Adesso torniamo a parlare della storia di cyberspionaggio di cui abbiamo parlato ampiamente ieri, no? Questa storia di spionaggio telematico con risvolti molto inquietanti. È la polizia postale che ha smantellato questa centrale che da anni raccoglieva notizie sensibili su banchieri, manager, varie personalità, politici, tra cui Renzi e Monti. E poi la polizia postale ha scoperto quindi una database, un archivio con tutti questi dati che si parla di oltre 18.000 username e password. Questa centrale che era praticamente faceva capo a due fratelli, fratello e sorella, un ingegnere nucleare, un genio della finanza considerato, Giulio Occhionero, e sua sorella Francesca, che è stata manager di varie società, una maratoneta. Oggi sono stati interrogati. Nell'interrogatorio di garanzia loro si sono difesi dicendo: in realtà non spiavamo, non abbiamo rubato dati a nessuno, ci servivano per il lavoro, così ha detto anche il loro avvocato. E fra l'altro il capo della polizia Gabrielli oggi ha spostato d'incarico il capo della polizia postale, perché dice ha sottovalutato la portata dell'indagine senza informare i vertici, perché questa indagine e questa raccolta dati andava avanti da anni. Quali sono gli aggiornamenti su questa indagine? Ce lo dice la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, ciao a te e ai nostri ascoltatori. E intanto sui fatti di oggi, cioè sull'interrogatorio di garanzia di cui parlavi, un dato è interessante: che è vero che loro si sono difesi e soprattutto il protagonista principale, che è lui, Giulio Occhionero, ha detto: quelle informazioni mi servivano soltanto per il mio lavoro di raccolta di informazioni finanziarie per i derivati, però non ha voluto dare le password di questi server americani che, secondo l'accusa, sarebbero il contenitore finale di tutto questo materiale raccolto con il software spia. Quindi già il fatto che non abbia voluto dare la password diciamo è un'indicazione di una, che c'è qualcosa da nascondere, chiaramente. Diciamo quantomeno di scarsa collaborazione. Ora questi server sono nelle mani dell'FBI anche, ed è diciamo che tra Italia e Stati Uniti che si cercherà di ricostruire quello che è stato criptato, ma anche quello che è stato distrutto, perché c'è un dato che emerge dagli atti e che è interessante, e che a partire dallo scorso ottobre proprio questo Giulio Occhionero ha cominciato a distruggere una serie di file e una serie di cartelle, perché era tutto catalogato in file sotto cartelle, tutto il materiale acquisito. Forse è facile immaginare, proprio per il timore anche dell'inchiesta stessa. E mi pare che anche durante l'irruzione, no, della polizia, lui e la sorella abbiano questo cercato, è un gesto in estremis, ma diciamo quello che forse ha tentato di fare all'inizio, se è vero e se quello che le indagini in questo momento dovessero confermare, sospettano, esatto, è che appunto avesse tentato di distruggere questi elementi, una sorta di pira informatica che ora invece tra FBI e Italia si cercherà di ricostruire. Però c'è un'altra domanda, che è la domanda centrale che si impone: a chi servivano e a cosa servivano, certo, tutte queste informazioni carpite a uomini delle istituzioni? oppure anche soltanto tentate, perché è stato chiarito che nei confronti Renzi non sono riusciti a raggiungere Renzi e Draghi, il suo cellulare. Esatto, non c'è stato un hackeraggio, ma soltanto un tentativo. Esiste un mercato, esistono dei clienti destinatari finali di queste operazioni? Ecco, il tema è molto sensibile, trattandosi di informazioni sensibili, ed è un tema che rimanda anche a tutto un mercato dell'informazione che ruota intorno alla sicurezza. Su questo io ho sentito una delle persone che in Italia è di sicuro tra i più esperti, che è Giuliano Tavaroli, che è stato già capo della sicurezza di Telecom e Pirelli, oggi consulente per alcune aziende, che è stato coinvolto, come i nostri ascoltatori ricorderanno, del primo, forse dei più celebri casi di dossieraggio, un'inchiesta della Procura di Milano, e lui parla proprio di un'ipotesi di vendita delle informazioni. Sentiamo. La spiegazione più semplice è che era un business. Queste sono operazioni che hanno sì il rischio di natura criminale, ma hanno un costo economico veramente risibile. Quanto difficile è cercare di violare account privati anche di personaggi istituzionali come può essere un presidente del Consiglio? Non ne siamo bene, nel senso che un attacco piuttosto conosciuto attraverso un malware anche piuttosto datato ha avuto un discreto successo. Ho come la sensazione che questa rete informatica di intelligence fosse al servizio della raccolta di informazioni economiche, che hanno un grande valore, no? In determinate situazioni di mercato. Le ricorda un po' quello che avveniva con la Telecom ai tempi dell'acquisizione della Telecom a Brasil? Sì, quella era proprio una guerra di potere. Ma lei ci vede soltanto due cittadini normali? Ci saranno dei clienti che immagino la magistratura avrà la possibilità di far emergere. E Tavaroli, ecco, questa è un'anticipazione giusto dell'intervista di Raffaella Calandra, che ritornerà poi completa a Storiacce sabato alle 21.30. Grazie Raffaella. Grazie a te. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora il filo dei discorsi, delle notizie. Roberta Giordano sempre con voi. Tra poco c'è lo spazio europeo e poi ci collegheremo con gli Stati Uniti per capire Trump che cosa ha voluto dire effettivamente oggi nella sua prima conferenza stampa. Intanto i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Fabio dice, a proposito dei 5 Stelle e delle defezioni, si sottoscrive un patto e poi si dice che è carta straccia. Che serietà e credibilità può avere una persona così? Meglio per il Movimento 5 Stelle che uno così sia andato via. Poi invece un altro messaggio, secondo me la Camusso, questa sulla decisione della Consulta, non vuole ammettere che in Italia non c'è più industria, le ultime grandi le stanno prendendo i francesi. Vi ricordo, le notizie più importanti sono appunto il no della Consulta sull'articolo 18 sui quesiti referendari, bocciato quello sull'articolo 18, mentre via libera a quelli su voucher ed appalti. La leader della CGIL Camusso dice: valutiamo un ricorso all'Unione Europea. Trump che dice: la Russia è dietro gli hacker, smantellerò l'Obamacare, cioè la riforma sanitaria di Obama, e io non sono ricattabile e farò il muro con il Messico, che il Messico ci pagherà. Movimento 5 Stelle perde i pezzi in Europa, l'eurodeputato a fronte va con i Verdi, sfida Grillo, dice non pagherò la multa perché è carta straccia, è quel contratto, e poi Zanni va verso invece il movimento, il gruppo europeo di Lega e Marine Le Pen. Paura per Gentiloni, che ha avuto un lieve malore di ritorno da Parigi, un intervento di angioplastica ha subito e ora pare stia bene. Respingono le accuse i fratelli accusati di cyberspionaggio, ma negano le password. Abbiamo parlato poco fa. E poi la coppia uccisa a colpi d'ascia, confessano figlio sedicenne, questo è successo nel Ferrarese, e l'amico, i due ragazzi, è contestata la premeditazione e un'ennesima violenza sulle donne. Una giovane, una ragazza, è stata sfregiata dall'ex nel Riminese, lui è... E poi l'ex compagno che ha dato fuoco all'ex fidanzata nei giorni fa resta in carcere. Maria De Filippi sbarca a Sanremo, vengo gratis al festival, e Conti che dice volevo il top. Spazio europeo. Europa 24 notte. E questa sera quindi di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di Galileo, che è il sistema di posizionamento globale europeo finanziato dall'Unione Europea, di cui si parla ormai dagli anni 90, ma al di là che se ne parli da un po' di tempo, cerchiamo di capire con il nostro Enrico Pagliarini, il nostro esperto di tecnologia anche spaziale. Ciao Enrico. In questo caso spaziale, buonasera, ciao. Che ritrovate naturalmente poi ogni venerdì subito dopo Effetto Notte alle 22 il venerdì con 2024. Allora, intanto questa definizione, il sistema di posizionamento globale europeo, Galileo, che significa, cos'è esattamente? È un sistema satellitare che ti suggerisce la posizione in cui tu sei. Cioè ti manda dei segnali sulla Terra tali per cui, ad esempio, il tuo smartphone sa che ti trovi a Milano piuttosto che in un'altra città. È un GPS, ma made in Europe. Dimmi una cosa, io tra l'altro che corro quando non ho la bronchite, con gli orologi GPS anche per la corsa, cioè anche con quello mi collego con, senza saperlo, con Galileo? Allora, non ancora oggi, diciamo che oggi sono ancora pochissimi i terminali, quindi anche gli orologi che hanno il GPS integrato, che sono compatibili con i segnali di Galileo, però lo saranno entro pochissimi anni tutti gli strumenti che noi abbiamo. E qui, perché è importante questo passaggio, se ne parla dagli anni 90? È tanto tempo che se ne parla, ma finalmente possiamo dare una notizia. Allora, dal 15 di dicembre i segnali di Galileo sono disponibili per tutti e tu ovviamente potresti domandarti ma chi li può ricevere? No, sono effettivamente ancora molto pochi. Quindi un sistema democratico prima di tutto, diciamo. Sì, è un sistema molto democratico, e questo è importante perché è un sistema che non è nato in ambito militare, ma è un ambito civile, quindi un sistema aperto a tutti. Ma fino a poco tempo fa, fino al 14 di dicembre, questi segnali erano criptati e li potevano utilizzare solo gli operatori che stanno costruendo la rete di Galileo. Si è presa questa decisione di mettere a disposizione di tutti già da adesso questi segnali, però va detto che adesso sono operativi solo 18 satelliti sui 30 che saranno disponibili dal 2020. Insomma, il sistema sarà completamente disponibile per tutti a partire dal 2020. Però già oggi chi ha un telefonino, ce ne sono già alcuni, oppure qualsiasi altro strumento che riceva i segnali del Galileo può beneficiare di questa nuova tecnologia. Ed è vero che è più preciso del GPS in senso tradizionale, come intendiamo? Allora, il GPS è il sistema che nasce in ambito militare americano. Galileo nasce in ambito civile, è molto più preciso per due motivi sostanzialmente. Primo, perché è più nuovo, ma soprattutto, in realtà anche il GPS si sta rinnovando perché vengono lanciati sempre nuovi satelliti, ma essendo non nato in ambito militare, i segnali del Galileo sono disponibili e non criptati per tutti. Poi è vero che ci sono sistemi, ci sono anche livelli di servizio un po' superiori, però per tutti, mentre il GPS ha una precisione di 2-3 metri, o comunque alcuni metri, Galileo avrà una precisione di un metro, o per alcuni servizi a pagamento addirittura nell'ordine di centimetri. Quindi non sfuggiamo la localizzazione. Invece Enrico Paglierini lo localizzate il venerdì alle 22 dopo effetto notte con 2024. Grazie Enrico Paglierini. Molto bene, grazie a voi, ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso colleghiamoci con gli Stati Uniti, con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore, proprio da lì. Caro Marco, buonasera, buongiorno. Buonasera a te. Buonasera a voi. Senti, io sono rimasta così, diciamo, un po' disorientata di fronte alla prima conferenza stampa di Donald Trump da presidente eletto, perché mi è sembrato che ha detto delle cose e poi il contrario di queste cose. Nel senso, ha negato per mesi che ci fosse hackeraggio russo dietro la sua elezione, o che ci fossero state interferenze, insomma, degli hacker russi. Poi oggi invece ha detto: penso che ci sia la Russia dietro gli hacker, Putin non avrebbe dovuto hackerare gli Stati Uniti e credo non lo farà più quando ci sarò io. Puoi illuminarci? Sì, diciamo che Trump diciamo, non nasconde la sua predilezione per, diciamo così, correggere le sue posizioni o cambiarle a volte anche significativamente, e questo è sicuramente uno dei casi. In questa conferenza stampa, è stata la prima, appunto, come ricordavi, il presidente eletto ha riconosciuto pubblicamente, l'aveva già fatto in realtà attraverso vari tweet che sono un po' il suo medium preferito. Il suo media preferito, però l'ha fatta, diciamo, anche in un media più tradizionale, questa volta come la conferenza stampa di fronte ai giornalisti, ha riconosciuto che effettivamente la Russia è credo, ha detto che la Russia sia alle spalle dell'hackeraggio contro i democratici durante la campagna elettorale, ha però poi rapidamente, come ricordavi, aggiunto a prodomo suo, ha aggiunto che comunque sia, non succederà più una volta che lui entrerà alla Casa Bianca, perché appunto in realtà i democratici e l'amministrazione Obama sono stati troppo soft in generale come politica estera, e invece Putin avrà, questa è la convinzione di Trump, un atteggiamento molto più rispettoso nei suoi confronti. Poi mi ha detto anche, a parte appunto abrogheremo l'Obamacare, la riforma sanitaria di Obama, ma poi ne faremo un'altra, ha detto che l'ISIS è stato creato da Obama, l'ISIS. Sì, questa anche è una così una reprise di cose che aveva già detto in campagna elettorale, diciamo così, slogan che alla fine si prestano appunto più all'insulto che alla politica, se vogliamo, perché in questo caso il ragionamento è Obama ha minimizzato troppo la minaccia di ISIS nata dalle forze di Al-Qaeda, ha lasciato spazio e quindi è nato, quindi di conseguenza, no, addirittura detto durante la campagna elettorale Trump, di conseguenza Obama ha considerato addirittura un cofondatore di ISIS, ecco. Quindi ha un po' rilanciato questo tipo di atteggiamento nei confronti dell'amministrazione uscente, sempre con l'idea di distinguere, quindi di promettere che la sua amministrazione avrà un atteggiamento molto più duro contro il terrorismo, avrà, diciamo così, un'efficacia molto maggiore in tutti i campi, dalla politica al commercio al terrorismo. Alla sanità, come dicevamo. Insomma, aspettiamo di vedere il 20 gennaio si insedierà ufficialmente. Grazie intanto a Marco Valsani dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Grazie a voi. Ci riaggiorniamo alle 22.